vorrei sapere che cazzo ti è pigliato. A un certo punto tu hai alzato culo e malassato. Lo sguardo della macchina non voglio sorvegliare più. E tutta questa amicizia non ha contato più. Non vorrei venire e per te era giù spartuto. Ma tu hai stronza mia, tata e le fornuta. Se rotta la biella, ta ta ta, fino a mora troppo bella. Te te te, l'hai pigliato con te me. Tu tu tu, non ci pensa mai più. Ta ta ta, se rotta la biella, ta ta ta, fino a mora troppo bella. Te te te, l'hai pigliato con te me. Tu tu tu, non ci pensa mai più. Un giorno mi dicessi l'amore è una pazzia, mi sono innamorato di te, più da mamma mia. La sera, la notte e pure la mattina ti tengo sempre in fronte dopo un siero mi ruina. Io per te sono sempre stato per amore appassionato, ma non sbaglio mai la lucca e può tattare, io sono all'occo. Ta ta ta, si è rotta la biella, ta ta ta, fine amore era troppo bella. Ogni mese la stessa storia, amore qua, amore là e poi tattato tu li da coro. È proprio un gesto infame per gente senza coro, per chi ha avuto troppo e poi non cadeci all'amore. Quando fiore e quando agnelle per stamane gli volia, ma l'amore non è quella, era tutta una bugia. Ta ta ta, sei rotta la biella, ta ta ta, fine amore era troppo bella. Che l'è fornuto e lo coro m'è sprezzato, mi sento ubriacato e la capa m'è sbandata. Mo tengo solo voglia la farmi una suonata e il tuo pensacchio a me scordando ho passato. Sta tienda si è rotta e non si acconza più, io son mezzo cuotto, mo non ci caro più. Si è rotta la tienda e con la colla non si incolla, ma a me che me ne fotte non ci penso mo a farlo.